America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. So all in all, this was a pretty shameful day for Washington. Un giorno vergognoso per Washington. Barack Obama attacca i senatori repubblicani che hanno boicottato e impedito il passaggio del progetto per il controllo della vendita delle armi negli Stati Uniti. Cominciamo a dire che non si trattava di un progetto di legge estremista, era semplicemente un progetto di legge che introduceva alcuni controlli per le persone che andavano a comprare delle armi, cercava di limitare alcune delle armi pesanti. Insomma, era un progetto di legge relativamente leggero. Eppure alla fine la lobby delle armi ha prevalso, 46 voti contrari, 54 voti a favore. I voti necessari dovevano essere 60 per una legge di questo genere, ci vuole una maggioranza dei due terzi, dunque sono mancati 6 voti per arrivare a quella maggioranza. Ecco, Barack Obama, vi ripeto, non ricordo di averlo visto così irritato. Insomma, questo è un presidente molto controllato, un presidente che cerca sempre di moderare i suoi interventi. Ecco, posso dirvi, in questa occasione non è stato così. Sentiamolo ancora. There were no coherent arguments as to why we wouldn't do this. It came down to politics. The worry that that vocal minority of gun owners. Ecco, il presidente qui attacca direttamente l'NRA, la National Rifle Association, e anzi fa anche una ricostruzione storica di questa situazione, perché dice che insomma questa associazione era nata una volta per educare la gente all'uso delle armi, per proteggere i cittadini americani da abusi nell'utilizzo di queste armi. È soltanto dagli anni 70, dagli anni 80 che questa organizzazione è stata in qualche modo infiltrata, per così dire, dai produttori stessi di armi, che così lo abbiamo visto in migliaia di immagini, organizzano fiere a livello nazionale, mettono su dei banconi pistoli, mitra, armi automatiche, semiautomatiche, e dunque si è creato un mercato straordinario, ed è su questo che Barack Obama ha poi battuto. Sentiamolo ancora. Who are we here to represent? Di nuovo il presidente. Ma chi stiamo rappresentando qui, si domanda il presidente. Stiamo rappresentando la maggioranza del paese o stiamo rappresentando soltanto una minoranza che va a tutela dei suoi interessi? Ripeto, il presidente ha parlato a braccio, è stato straordinariamente efficace dal punto di vista della retorica, perché ha dato un quadro d'insieme, risalito all'attacco contro Gabby Gifford in Arizona, il deputato che durante un comizio fu ferita gravemente, ma intorno a lei furono uccise delle persone, fu uccisa una bambina, molti di voi lo ricorderanno, che era nata proprio l'11 settembre del 2001. Poi ci sono stati altri episodi, le sparatorie nel cinema in Colorado, poi c'è stato naturalmente l'evento più grave di tutti, l'eccidio di Newton in Connecticut. E dunque Obama, ecco, si vedeva proprio la voce gli tremava, anche perché questo presidente ha incontrato i familiari delle vittime, si è recato sul posto, ha conosciuto queste persone, ha condiviso il dolore. C'è una parte privata nel mestiere del presidente degli Stati Uniti, del capo di Stato, del capo di governo, devo dire in qualunque paese, non soltanto negli Stati Uniti, che è molto privato, ma è dal punto di vista emotivo straordinariamente coinvolgente. Michelle Obama, ricordo, durante la convention di Charlottesville, la convention democratica, ha ricordato questi suoi incontri con le famiglie dei militari, e ha avuto un appoggio molto forte, devo dire, dalle associazioni di familiari di coloro che sono al fronte a combattere. Dunque c'è una partecipazione da parte di questa coppia presidenziale privata che va al di là di quello che possiamo vedere pubblicamente. Il momento più emotivo, commovente, devo dire, c'è stato quando si è voltato e ha visto i genitori di alcuni dei bambini uccisi a Newton. C'erano 5 famiglie e queste famiglie lo hanno appoggiato moltissimo in questo sforzo, e devo dire, vedere i volti in lacrime di questi genitori devastati per il fatto che l'eccidio dei loro figli non sia servito a nulla, almeno fino a questo momento, forse per loro è stato troppo. Barack Obama ha abbracciato le madri di questi bambini, madri, vi ripeto, in lacrime. Lo stesso presidente era visibilmente commosso. Il suo appello è stato un appello al paese per superare quelle che lui ha definito le lobby che hanno controllato questi pochi voti al Senato e hanno impedito di andare avanti lungo quello che è un percorso condiviso, voluto dalla stragrande maggioranza del paese. E dunque ha chiuso: se lo vuole il paese, noi dobbiamo darglielo e dobbiamo fare quello che è giusto. There'll be a heightened law enforcement presence consistent with the severity and seriousness of the ongoing investigation. Deval Patrick, governatore del Massachusetts, un altro politico frustrato perché insomma le notizie che abbiamo in arrivo da Boston sono state contraddittorie. Ieri sembrava che si fosse fatto un passo in avanti molto importante. Io sono convinto che ci sono sicuramente dei passi in avanti nelle indagini, nelle inchieste. È stato identificato un uomo che depositava una borsa di fianco al palazzo dove poi sono esplose le bombe, almeno una delle bombe, quindi quello potrebbe essere il momento in cui è depositato uno degli zaini. Che cosa è successo? Che la rete CNN ha detto che questa persona non solo era un sospetto, ma era stato addirittura arrestato. Su questo ci sono state molte polemiche perché le autorità hanno smentito, lo stesso governatore ha voluto chiarire e precisare in un incontro che ha avuto con i giornalisti che le inchieste stanno procedendo in modo ordinato, che ancora non ci sono delle conclusioni precise. Allora, come poter ricostruire quello che è accaduto? Perché ci sono in effetti parecchi dettagli legati a questi video. Intanto i video sarebbero due, sono dei video che sono stati consegnati dal negozio Lord & Taylor, che fa parte di una grande catena di magazzini americana, e dove si vedono chiaramente appunto queste immagini. A un certo punto la CNN ha detto che era stato identificato l'uomo, la persona, addirittura si diceva che aveva una carnagione scura e che era stato persino arrestato. Poi è arrivata la smentita, non è stato arrestato. Cosa possiamo concludere? Beh, che l'inchiesta è un'inchiesta chiaramente difficile e confusa. Sicuramente c'è qualcuno che è stato identificato, ma non è detto che sia la persona giusta. Ricordiamo, era stato identificato anche un giovane saudita, un ventenne. Abbiamo visto poi le immagini addirittura degli SWAT team che sono andati nel suo appartamento a perquisirlo. Eppure poi ci si è resi conto che questo signore non c'entrava assolutamente niente, era semplicemente un passante che si trovava per caso lì, è stato colpito da alcune delle schede, è stato poi ricoverato in ospedale ed è a piede libero, non più sospetto. Eppure la gente vuole sapere, vuole capire qual è la matrice, una matrice interna, una matrice internazionale. Proprio ieri a Medford ci sono stati i funerali di Christine Campbell, la ragazza di 29 anni uccisa. Ci sono nuovi dettagli invece sulla ragazza cinese che era appassionata di alta tecnologia, di economia digitale. La sua salma è stata rimpatriata in Cina, dove si terranno i funerali. Appena avremo altre notizie, notizie definitive, le troverete su Radio 24 naturalmente e più in dettaglio su America 24. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!